Italo, l'agente immobiliare che ci provava con tutte. Italo, l'ex di Natalie. Italo, il piacione su Facebook, quello che sfrecciava sulle tangenziali. Italo si sposa. Allora la gente fa veramente le cose a caso. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16.05, quasi 6 minuti. Oggi è il primo di giugno, è un bel primo di giugno del 2011. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Io ho sempre pensato che il processo decisionale sia sopravvalutato. In molti casi prendere decisioni sembra la cosa più difficile della terra. E invece forse è la più semplice. Tutte le volte che ci troviamo di fronte ad una scelta importante, no? Di quelle che cambiano la nostra vita, oppure che sembra che cambino la nostra vita, tutti quanti intorno a noi non fanno altro che ripeterci frasi tipo «Pensaci bene, eh?» Ecco, prenditi del tempo per riflettere. Spesso però tutto questo pensarci su non serve a molto. Ci sono saggi, ci sono fiumi di pagine che descrivono come funziona il processo decisionale. Come si sviluppano i desideri e poi la serie di pensieri e di riflessioni che nascono attorno a quei desideri. E poi l'ultima fase, che è quella della scelta. Però da qualche parte, qualche tempo fa, lessi che le decisioni importanti si prendono sempre in un lasso di tempo ridottissimo. E tutto il tempo che poi dedichiamo a ragionarci sopra, e poi a raccontarlo ad amici o a parenti, è in realtà dedicato solo a giustificare quella decisione già presa. Lavori abbandonati nel giro di un pomeriggio, matrimoni decisi in una settimana, trasferimenti repentini, tutte queste decisioni, tutte le decisioni cardine della nostra vita, le prendiamo sempre in pochissimi secondi. Solo che in alcuni casi facciamo finta di pensarci per giorni, per mesi, in altri invece assecondiamo quel tempo così ristretto e facciamo tutto molto in fretta, anche se intorno a noi ci guardano come fossimo dei pazzi, con quell'aria di chi è più saggio di noi e quindi ci osserva scrollando la testa. Io credo che sia giusto, oltre che sano, decidere in fretta. Credo che tutte le volte che pensiamo che quella scelta sia una scelta fondamentale per la nostra vita, ecco, io penso che in realtà non sia così. Credo che in fondo la vita di ognuno proceda per gradi, tipo minuscoli aggiustamenti, per alzamenti o abbassamenti ridotti della temperatura dell'esistenza. Poi ogni tanto ci si trova di fronte a scelte, no? Che noi ovviamente investiamo di enormi significati. Scelte che ci sembrano un bivio immane, qualcosa che farà piegare la nostra vita da una parte o da un'altra. Ma è solo perché ci serve dare molto significato ad alcune cose e poco ad altre. Se però, in questo momento, all'ascolto, qualcuno di voi ha preso decisioni importanti, apparentemente però lo ha fatto alla leggera. Se ci ha pensato 2 secondi e si è licenziato, se dopo un giorno viveva già in un altro continente, se in un pomeriggio vi siete sposati o separati, oggi è la puntata per voi. Oggi è la puntata per tutti quelli che hanno preso scelte epocali con la leggerezza di un soffio di vento. Ecco dove sono oggi. Oggi io sono qui. Il numero è sempre quello. Il numero per chiamare in diretta è 80024 0024. Per mandare gli sms invece è 349 238 6666. Addirittura quando in quel buio periodo della mia vita... alzo un attimo il microfono. Perché poi si sente brutto, no? Sentire il rumore che si alza il microfono. Rudy, ti chiedo scusa. Però ce l'avevo troppo basso. Andavo qua a parlare, era orribile. Quando in quel oscuro periodo della mia vita ho studiato marketing e comunicazione, mi ricordo che qualcuno mi disse, qualcuno inteso come un docente, che tutti i volantini che vengono fatti, soprattutto per gli acquisti quelli più costosi, l'automobile oppure la moto, la casa no, perché non esistono Deplian per le moto, per le case, però sì, ci sono quelli per le moto, per le macchine. Ecco, tutti quei Deplian lì in realtà non vengono guardati prima dell'acquisto, vengono guardati dopo, perché tu hai deciso, l'hai comprato, poi guardi il Deplian e cominci: ah, hai visto? C'è anche i fari in tungsteno, le altre... quindi questi 50.000 euro li ho spesi bene. Guarda, c'ha sotto la letta, quella di fronte al guidatore, c'è anche lo specchietto con la luce che si accende. L'aria condizionata, quella la sapevamo. Cerchi in lega, lo sapevamo. Non sapevamo che avevi cerchi in lega. 50.000 euro me spesi. 800 24 00 24, 349 238 6666. Decisioni che hanno stravolto la vostra vita, prese intanto così. Ma anche se siete una donna, semplicemente il taglio di capelli. No, no, non prendetela male, Viola, giustamente si tocca i capelli perché se li hai tagliati di... te li sei tagliati di recente, vero? No, tipo 2 mesi fa, di recente, però per te è di recente. Francesca, il racconto di Francesca. Matrimonio di mia sorella, unica sorella di cui sono testimone. Non mi taglio né mi tingo i capelli da quasi 2 anni. Perché? E già uno si dice, perché? Perché nel frattempo è nata la mia bambina. Ora, a Francesco qua bisognerebbe aprire una parentesi, per cui non è che se nasce tua figlia tu devi imbruttirti manco fossi la strega di la strega di Eastwick, no? Nel senso che hai un marito comunque, e quel marito lì non è che perché gli sei piaciuto una volta che poi basta, tutti i giorni devi piacergli a tuo marito, altrimenti sai com'è, no? Giustamente Bonini mi suggerisce che le donne si stanno rivoltando sulle sedie. Non sulle tombe, non nelle tombe. Insomma, matrimonio di mia sorella, mi guardo allo specchio, capisco che è venuto il momento di tingermi i capelli. Prendo un giornale, la mia attenzione cade su di lei, la diva del momento, con quel delizioso carré alla Valentina Crepax. Mi presento alla parrucchiera armata di foto e comincio il solito balletto. Sei sicura? Ma certo che sono sicura, è il colore rosso. Sono troppo chiara di base, il nero non tiene. Allora taglio, vai tranquillo, taglia. Arrivo a casa e tutto sembra ok. Il caschetto è sbarazzino, è elegante, il colore a dirla tutta sembra un po' più rosso carota che rosso tiziano, ma chi se ne frega. Il vestito ok, il taglio ok, è tutto pronto. Arriva il giorno del matrimonio e con quel giorno il diluvio. I miei capelli ad ogni millimetro di pioggia si gonfiano crespi e puntano all'arancione, le gocce cadono, i capelli crescono. Per capire l'entità del volume, basti pensare che la foto di rito ritraggono una sposa raggiante, mia sorella, accompagnata da una guardia imperiale di guerre stellari con il casco arancione. Ci è voluto più di un anno per tornare ad un'acconciatura accettabile, per smettere di odiare Katie Holmes ci vorrà molto di più. Credo che Katie Holmes sia quella che aveva il taglio alla Valentina Crepax. Grazie Francesca, decisioni epocali come queste, ma anche decisioni tipo quella di Gianfranco. 3 anni fa ho deciso di trasferirmi per andare ad abitare vicino alla mia ragazza. Mi sembrava che tutto intorno a me scongiurasse per spingermi in quella direzione. Mi sono fidato di quella sensazione. Alla fine è andata male, ma per fortuna si può tornare indietro. Manuel, divorziato da 11 anni, quest'estate percorrerò 250 km a piedi in 7 giorni in Francia. Deciso così, su due piedi, come di risposarmi 15 anni fa. Confido in un esito migliore. Confidiamo anche noi per te. Donata, sto pensando a una nuova attività imprenditoriale. Per ora sono solo parole, progetti, ricerca, ma dentro di me so già di aver deciso. C'era un altro progetto imprenditoriale deciso in poco. Eccola qua, Nina. Ho acquistato e ristrutturato un negozio perché avrei voluto aprire un'attività artigianale, ovviamente senza valutare che in quella posizione l'attività avrebbe avuto poca fortuna. Il negozio è sempre lì, con il delizioso soppalco con gli sportelli in carta di riso, quelli che avevo voluto io, le pareti giallo pastello, eppure l'aria condizionata. Tutto questo per ospitare una valanga di cose inutili che non ho il coraggio di buttare. 800240024 oppure 349 238 6666. Oggi si parla di decisioni importanti prese alla leggera. Io e Nathalie ci scriviamo tutti i giorni. Abbiamo smesso di usare Skype perché la connessione non è buona, però abbiamo deciso che va meglio così, anche perché lei dorme in camera con una collega e hanno poco tempo per riposare, quindi vuole evitare di dare fastidio. Questa tizia è una belga, si chiama Gertrude. Le sta simpatica ma è un po' rigidina, insomma, preferisce mantenere i buoni rapporti che si è costruita. Però le mail hanno una piccola contraddizione, che sembrano sempre un po' troppo formali. Quindi quando parliamo dobbiamo usare gli emoticon, quelle cose orribili, sorrisetti, cose del genere, insomma, niente di reale. Quando invece si parla di quel che si fa, di contenuti veri e propri, allora è lì che Nathalie si scalda. Dice che riesce solo ogni tanto ad ascoltare la trasmissione, che però continua a piacerle. Attacca a parlare di come nell'headquarter si sia trovata uno spot molto buono, che c'era un gap comunicazionale con i team leader, però ora va meglio. Stanno facendo del lobbying con certe aziende georgiane, ma ogni tanto gli capita anche di dover partire per missione di peacekeeping di fianco a delle mostrine. Ecco, io quando parla così non capisco niente, ma proprio niente. L'unica cosa che capisco è che le sta piacendo quello che fa, che il suo lavoro le dà qualche soddisfazione e che sta entrando nel clima. Dopo le prime settimane di paura e difficoltà, o dopo le invidie con la collega più esperta, ora sembra tutto superato. La gente è splendida, il lavoro è duro, ma se ne vedono i frutti. Stare a contatto con altre persone di altri paesi è un'esperienza splendida. E c'è anche spazio per delle gite turistiche. Perché è vero, non è che se non fai un lavoro di ufficio significa che non devi avere dello spazio per riposarti o per fare una pausa. Cioè, anche se sei un missionario dovrai mangiare o pregare o fare qualcosa che non sia curare i bambini che stanno male. Se no diventi matto. E allora, ecco arrivare i primi racconti di come le coste del Mar Nero siano sorprendenti. Di come l'acqua sia cristallina. Che non sembrano i Caraibi solo perché la sabbia è scura. E se anche si vedono le petroliere all'orizzonte, sembra di stare nel Mediterraneo. Poi ci sono le pinete, le crociere per i ricchi del posto, quelle che attraccano nel piccolo porto che lei ha visitato e si fermano magari una sera per cena al ristorante. E la settimana dopo arriva invece la descrizione della foresta che copre una particolare zona del Caucaso, che non è brulla per niente, anzi, è verdissima. E ci sono prati fioriti e ci si fanno delle escursioni splendide. Basta sapere quali sono le zone che sono già state sminate, ovviamente, e loro lo sanno perché hanno le cartine. Mi racconta di come ormai guidi la Land Rover come se fosse una bicicletta, lei che a Milano a momenti non aveva neanche la patente. Chissà che nuova Natalie tornerà indietro. Questo me lo chiedo a volte. E soprattutto mi chiedo chissà se tornerà Natalie. Per intanto continuiamo a scriverci. Nella mail di ieri sera Natalie chiudeva così. Ah, sai, ho ricevuto una mail di Italo, ti ricordi? Certo che me lo ricordo, gli ho fregato la fidanzata. Mi ha detto che si sposa. Italo. L'agente immobiliare che ci provava con tutte. L'ex della mia fidanzata. Italo, il piacione su Facebook che sfrecciava sulle tangenziali. Italo si sposa. Ma allora la gente fa veramente le cose a caso. Always been and always will until the end. Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello. Che va benissimo quando la gente si innamora oppure cambia e basta, però Italo, no. No, da Italo il matrimonio non me lo sarei mai aspettato. Mi ricordo qualche mese fa, non so se ve lo ricordate anche voi, quando mi sono inventato Michela Pesca e me lo sono inventato per farlo cadere nel tranello. Era quando volevo che la sua storia con Natalie finisse. E quello che mi sembrava un nemico alla fine era solo uno qualunque, uno che doveva fare il gradasso per sentirsi un po' meglio, uno che non sapeva stare in piedi da solo e aveva bisogno di una macchina potente. Però mi era sembrato sempre uno che non si faceva troppe domande. Ecco, questa è una cosa che ho sempre pensato fosse una stupidata e che le cose dovevano andare valutate, pensate prima di farle. Questo lo pensavo qualche anno fa, perché alla fine è anche vero che se uno aspetta e aspetta, prima o poi diventa troppo tardi. È un po' come quando c'è una torta nel forno e per paura che sia cruda, per aspettare il momento, quello giusto, la fai bruciare. E quando la tiri fuori, sopra è perfetta, ma sotto è tutta nera, fa schifo e la devi buttare. Ecco, io ho sempre fatto bruciare tutte le torte che ho messo nel forno. E invece, se gli ingredienti sono buoni, è meglio mangiare quello che c'è, invece di aspettare il momento perfetto. È un po' come la storia del principe azzurro, quella per cui le donne aspettano l'uomo dei sogni e intanto non si godono quelli che esistono davvero. A me quando la gente fa le cose così a caso, un po' non mi va giù, però ammetto che l'invidio. È un po' come la storia delle regole, no? Che se ci sono, dà fastidio seguirle, ma se non ci sono è peggio. Oppure a volte ci sono e la gente se ne frega. Ecco, sì, così è più chiaro. Dunque, è come quando sei in alcune città, no? E ti accorgi che la gente va in giro un po' così, a caso. Però non si fa sangue amaro. Cioè, magari ti sorpassano dove non devono, o non ti danno una precedenza. Però basta andare piano e non prendersela. E poi lo puoi fare anche tu. Invece in altre sembra che se fai una cosa fuori dalle regole, tu debba essere punito in eterno. Solo a parole, però. Solo con la rabbia di quelli intorno. Perché poi nemmeno lì le regole sono veramente rispettate. E poi c'è la Svizzera, ma quella è un'altra cosa. Insomma, ripenso a Italo, che è milanese, ma anche no. E sicuramente è uno che le dà e le prende senza troppi patemi. Penso che forse è sulla mia lista delle persone da rivedere, o dei posti da andare a rivedere, dei luoghi dove tornare. E questo mi sa che è il momento giusto. E che in questi giorni toccherà andare a trovarlo, Italo. Italo che si sposa con chissà chi. Italo con cui ho fatto pure un incidente in macchina. E mi ha riconosciuto e mi ha detto che ascoltava il programma proprio mentre io gli soffiavo la fidanzata. E lui non se l'ha nemmeno presa. Sai che faccio? Io quasi quasi lo chiamo Italo. Bianca mi scrive: mi sono licenziata dopo circa 30 ore che mi avevano fatto un contratto. Era un contratto abbastanza importante, per cui avevo aspettato mesi. Un contratto per una clinica privata enorme in cui mi avrebbero dato 1650 euro mensili. Ho firmato il contratto alle 10 in agenzia e ho iniziato il turno alle 13. Appena entrata in reparto mi sono resa conto che avevo cambiato quello che stavo facendo, cioè il lavoro di prima, per approdare a qualcosa di peggiore che non era per me. Ho pianto tutto il ritorno a casa, nel panico. Ero disoccupata da 5 mesi e da 2 aspettavo di iniziare quel lavoro lì. La mattina dopo sono andata dal responsabile in persona e gli ho detto che volevo andarmene. Non vi dico il delirio. Alle 14 ho firmato la dimissione con la tizia dell'agenzia scandalizzata. Prendere una decisione di istinto è però diverso dal farlo alla leggera. È vero, è una, c'è una sottile differenza. 349-238-6666. Antonio, 30 anni fa ero indeciso e ho gettato in aria 100 lire. Test avrei fatto lettere, croce ingegneria. Ho fatto lettere. Felice per come è andata. Antonio. Antonio, visto che 30 anni fa hai fatto lettere, ci piacerebbe sapere che cosa fai adesso, no? Perché uno dei grandi misteri. Che cosa fanno quelli che studiano lettere? Se hai voglia di scrivercelo, 349-238-6666. E poi il mio messaggio preferito di oggi era questo qua: ho mollato un lavoro da 1500 euro sicuri al mese, e tutti sanno cosa sono 1500 euro sicuri al mese oggi, per inseguire il mio sogno di aprire un locale. Presa la decisione, date le dimissioni e preso il locale in 2 mesi. Tutto distinto. Forse avrei dovuto pianificare meglio e soprattutto usare la testa. Risultato? Faccio il fattorino, ma sono felice. Io sono qui. E Walter è qui con noi. Pronto, Walter? Pronto? Ciao, grazie per essere qui, Walter. Grazie a te. Come stai? Bene, bene, tutto bene, grazie. Quanti anni hai, Walter? 36. Senti, raccontami che lavoro facevi prima. Allora, io lavoravo in un concessionario d'auto, senza fare nomi, e ho lavorato lì per 3 anni. E quindi facevi il venditore? Esatto, assolutamente sì. Come c'eri arrivato a fare il venditore d'auto? C'ero arrivato tramite il direttore di questo concessionario, che era un mio compagno delle superiori, e contatti, e sono approdato poi a fare il venditore. Però poi vuoi aprire un locale? Esatto, sì. E dove lo apri? A Brescia, in città, e niente, mi butto in questa esperienza e lasciando quello che avevo di sicuro, che era lo stipendio, che era comunque molto buono, per questa nuova vita. I miei genitori avevano già fatto questo tipo di vita e io ero rimasto affascinato fin da piccolo, quando andavo dietro il bancone che non ci arrivavo neanche. Come si chiamava il tuo locale? Club Batik. Scusami? Club Batik. Batik, esatto. Ok. Senti, era una roba un po' esotica? Ma diciamo il nome sì, proprio il resto era... Ma com'era dentro il locale? C'era roba tipo in vacchetta? Non so perché mi immagino i poltroni... Esatto, quando l'ho acquistato era proprio così, poi io l'ho cambiato, l'ho ristrutturato, diciamo, dandogli una vista un po' più moderna. Un po' più e quanto attuale. Hai speso per comprare la licenza, per ristrutturare il bar? Un bel po' di soldi, diciamo intorno ai 50.000 euro, okay. Una cosina di più. Sì. Ok, e poi? E poi niente, io ho lavorato in questo locale per 5 anni e adesso mi ritrovo invece a fare il fattorino, ma sono comunque felice. Ma perché le cose sono andate storte oppure semplicemente perché a un certo punto... Diciamo che non sono andate proprio benissimo. Quindi l'hai rivenduto? Sì. Ho rivenduto e da qualche mese e adesso per fortuna sono stato assunto in questa azienda, ma comunque sono contento. E adesso è pieno il locale, Walter? Com'è? Il locale adesso è pieno di gente oppure... No, dirò che chi l'ha acquistato non l'ha ancora riaperto. Allora c'è sta Peppa Tencia in giro per Brescia, ragazzi, non prendete sto locale. Senti, Walter, che fai il fattorino con che cosa? In auto? Il furgone? Sì, in furgoncino, sì. Ok, sei tranquillo comunque? Assolutamente sì. Bravo, Walter. Assolutamente sì. Sei in macchina in questo momento? Sei in giro? Sì, mi sono fermato in parte, sì, sto rientrando alla base. Walter, ti ringrazio molto e ti auguro buona fortuna. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Grazie. Buona giornata, ciao. Nel corso di una telefonata alle 3 di notte ho deciso di trasferirmi in Brasile per lavoro con moglie e 3 figli, il più piccolo di 4 settimane. È durato 1 anno, hanno smesso di pagarmi e siamo rientrati in Italia. Sentiamo la borsa e poi io sono qui. Poi domenica sono successe 2 cose. Sapete come sono le mamme, no? Un po' come i papà per le figlie femmine. Quella spensieratezza un po' sconsiderata che si fa. E io che mi ero convinto che i gusti fossero mutevoli. Che quello che ci piace ci definisce. Dice chi siamo e quello che possiamo diventare. Ma voi, esattamente dove siete? Io sono qui è stata la storia di una vita riassunta in 10 mesi di programma, ma basterà una sola sera per ripercorrerla tutta. Giovedì 23 giugno alle 21, nella sede del Sole 24 Ore di Milano, io sono qui live. Io sono qui live. Matteo Caccia ripropone e racconta una selezione delle migliori puntate della stagione. L'ingresso è gratuito. Per prenotare, inviate una mail a iosonoqui@radio24.it, indicando nell'oggetto 23 giugno e nel testo i nomi e il numero dei presenti. Io sono qui live, giovedì 23 giugno 2011. Un anno di diretta in una serata dal vivo. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao e sto qui. Nella foto di oggi siamo su una strada, o meglio, su una strada che sta scorrendo sotto le ruote di una bicicletta. Della bicicletta si vede giusto la ruota anteriore, il manubrio e la mano della persona che tiene il manubrio inguantata con un guanto nero di pile e giusto la parte iniziale della manica gialla, quindi è la tipica tenuta da ciclista. L'altra mano non si vede perché sta scattando la foto. La cosa più interessante di questa fotografia, al di là del manubrio che ha una specie di grip rosso fuoco e la ruota nera e rossa, è il tachimetro, il contachilometri, che non segna solo la velocità, sta facendo 22 km all'ora, non segna solo i chilometri che è percorso, che sono 35, segna i battiti cardiaci, che in questo momento esatto, in questo momento dello scatto della foto, sono 141. Fabrizio Malvicini, 49 anni, pausa pranzo, io e la mia bicicletta, il momento migliore della giornata, niente pensiero o problemi, solo rilassante fatica fisica e io sono qui nell'iPod, non è importanza il luogo, io sono in bicicletta, io sono qui. Bravo Fabrizio che stai in bicicletta e noi siamo tutti un pochettino con te. La foto però è meravigliosa, è una delle mie preferite. So che dico sempre così, però questa è una delle mie preferite insieme a quelle dei comodini. Biciclette e comodini. Non perdiamo tempo, come dicono i veri. No, invece perdiamo il tempo, perché scusatemi, quando ho chiesto al laureato in lettere che lavoro fai, subito è arrivato il polemico. Davide, chi studia lettere fa l'intellettuale. L'importante è trovare qualcuno che ti paghi per farlo. E poi è arrivato il messaggio invece della persona che aveva scritto: laureato in lettere, faccio il responsabile commerciale. Benissimo, lui dice però voglio insegnare e spero di farcela. La mia decisione è stata andare a vivere a casa della mia lei, lasciando i miei genitori, così, senza pensarci su. Avevo 22 anni, lei 30. A volte ci penso, ma a 20 anni non si ragiona con la testa giusta. Comunque sono 14 anni che conviviamo, di cui 3 da sposati, e alla fine è andata bene. Andiamo subito a Treviso da Daniele. Pronto Daniele? Pronto, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sei sul camion, Daniele, giusto? Sì, sono in camion. E dove stai andando? Fermato. Ah, ti sei fermato. Sto tornando a casa da Roma. Da Roma? Sì, sono a Padova adesso. Quanto ci metti da Roma a Treviso in camion? Beh, da Roma Nord sono 6 ore e mezzo di guida circa. Ha una media di 90? Sì, quando si può, sì. Senti, raccontami, era il 1998, a giugno conobbi una donna meravigliosa. Esatto. Poi? Esatto. Praticamente una sera ho visto sta bellissima ragazza passarmi davanti. Sì. E sono rimasto colpito. 3 giorni dopo devo andare a un concerto con un amico che mi fa: guarda, mi fermo per strada che la tiro su una mia amica. Ed era lei, il destino. Siamo andati a sto concerto, poi mi è iniziato a frequentarci. Ad agosto siamo andati in ferie insieme. Dopo 15 giorni che siamo tornati più bianchi di prima, lei stava male. Una sera mi chiama e mi fa: ci troviamo. E la sera appunto mi fa: sono incinta. E gli ho detto: beh, allora ci sposiamo. E a novembre siamo sposati. Senti, e com'è finita, Daniele? A che punto siamo? 5 mesi. A che punto siamo adesso? Adesso siamo separati. Praticamente 10 anni dopo, sempre nel mese di novembre, una settimana dopo esatto il nostro matrimonio, abbiamo avuto invece il giorno della separazione. Ho capito. Senti, tua figlia quanti anni ha adesso? 12. Ha 12 anni. Come si chiama? Sì, Giulia. Senti Daniele, io ti ringrazio per questa storia che è precisa, anche perché sento le 4 frecce del camion e ti immagino in mezzo alla strada e quindi preferisco lasciarti andare, però ti ringrazio per la telefonata Daniele. Senti l'ultima cosa. Ciao, buona giornata. Andiamo a Biella da Roberto. Pronto Roberto? Ciao Matteo, sono Roberto. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, senti, dimmi, raccontami la tua storia. Ma la mia storia è che un mio amico d'infanzia mi ha proposto di un'avventura, tra virgolette, a Miami, di gestire in comproprietà un locale con altri suoi soci. E io dopo 30 anni di lavoro nello stesso posto, tranquillo, per carità, mi trovo bene, però un po' alla volta sono mancati, diciamo, gli stimoli iniziali. Quindi stai per partire per Miami, Roberto? Parto per Miami in questa nuova avventura, chiaramente. Ma quando parti? Dimmi quando parti. 15 15 giugno parto per il primo viaggio e poi ritorno per sistemare le ultime cose burocratiche. Poi... Però Roberto, non hai la voce di uno che sta per partire per Miami. Perché? Stammi più su, per piacere. Stammi più su. Buona giornata, grazie Roberto. Grazie, ciao. Ciao. Andiamo da Laura a Milano. Pronto Laura? Sì, pronto, ciao. Laura, qui non si capisce più niente. Avete fatto Milano, settembre-dicembre, trasloco, poi? Allora, io eravamo in affitto, ho cominciato a dire che praticamente non volevo più stare in quella casa a settembre. Mi sono messa a cercare e a dicembre abbiamo traslocato. Mm. Poi in ufficio, in un posto dove lavoravo ormai da 15-16 anni, e non mi confermavano il part-time, io ho due bambini e quindi era un problema. Mm? Ho ricevuto una proposta di lavoro a Chiavari. Sì. Quindi dopo 3 mesi che avevamo traslocato, rogitato, abbiamo firmato la lettera di impegno per andare a lavorare a Chiavari. Io, mio marito e due bambini ci siamo trasferiti. Sì. Dopo 18 mesi questa azienda di Chiavari mi ha trasferita presso gli uffici di Milano. Laura, però scusami, qua più che decisioni avventate è proprio andata di sfiga. Cioè che hai fatto dei giri tali che alla fine hai fatto più chilometri con i camion di trasloco che non di vacanza. Ma stai a prendere i tuoi figli, però, tra l'altro, adesso? Sì, adesso sì. Ma no, diciamo che la decisione avventata è stata, uno, comprare casa in 2 mesi. Perché ho deciso che dovevo farlo e non c'è stato verso di cambiare idea. E l'altra quella che nel giro di, credo, 20 giorni da quando ho ricevuto la proposta... abbiamo firmato la lettera di impegno io e mio marito, quindi certo. Diciamo che ci siamo trovati. Laura, ti ringrazio molto, buona giornata. Grazie a te, ciao. Ciao, andiamo al volo a Roma da Marco. Pronto Marco? Sì, ciao. Ciao, raccontami, 10 anni fa eri in fuga dall'Italia. Esatto, nel senso, vabbè, stavo divorziando e sembrava più facile farlo andandosene. Sì. E sono stato un po' in Svizzera e poi... stavo cercando di decidermi per vari motivi tra Londra e Barcellona. Sono partito dalla Svizzera senza saperlo, arrivato a Lione, cioè o vai su o vai giù. Eri in macchina quindi? Esatto. Sì. E ho guardato il bagaglio, non c'erano maglioni, non c'era nulla, come dire, di londinese e sono andato giù. Ma Marco, questa è magnifica. Decidere dove andare a vivere in base al vestiario e al clima. E, da quanto... e poi sei andato a Barcellona quindi? Esatto, e è andata bene, nel senso che continuo a fare un po' il pendolare con l'Italia, ma fra 15 giorni circa sarò un cittadino spagnolo, perché sono trascorsi 10 anni necessari per ottenere la residenza, cioè il passaporto. Sì, sì, e di mestiere vendi maglioni a Barcellona? No, tutt'altro. Che cosa fai? Lavoro online, un'azienda che fa sistemi di pagamento. Ci torni ogni tanto a quel bivio a Lione? Ci sei passato di nuovo? No, mai più, anche perché venendo dall'Italia si fa un'altra strada, arriviamo dalla Svizzera, però per il decennale in effetti sarebbe un'idea. Non sarebbe brutto. Marco, grazie mille e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Ciao. Te. Ciao, grazie. Chiudiamo con uno dei racconti che continuano ad arrivare. Io sono qui, @radio24.it. Continuate a mandarli, perché questa roba diventerà una roba molto più grossa di quella che è in questo momento. E cioè dei piccoli estratti. Quello di oggi è di Mariella Fiorino. Si chiama Il vicolo dei glicini. La domenica mattina, dopo la messa e il catechismo, noi bambini giocavamo nel cortile antistante la chiesa, sotto lo sguardo invincibile della signorina Marta, la sorella del parroco. Una donna alta, robusta, con la faccia rotonda e i capelli incatenati in una crocchia fitta. Ci infilzava coi suoi occhi piccoli, senza mai un sorriso. Ci trafiggeva ogni risata come se fosse la mela del peccato. In quarta elementare un giorno ci accorgemmo che quel cortile ci si era ristretto attorno, come una maglia infeltrita, e che gli occhi della signorina Marta erano una gabbia. Una domenica Aldo, un bambino che abitava in un paio di palazzi dopo il mio, disse: conosco un posto, ma ci vuole coraggio. Ci sono passata l'altro giorno in quel posto, dopo 50 anni, sulle tracce di una curiosità perduta e con nuove paure da annientare, mentre giravo in cerca di un appoggio per puntellare i miei sogni fatiscenti. Mi sono fermata all'inizio dello slargo. Le case sono state ricostruite. Tutti i prospetti hanno lo stesso rosa e gli infissi di legno biondo chiaro. Il glicine però è sempre là. Indomito s'affaccia dal muro nel giardino. Ho respirato a fondo, aspirando con forza quel profumo. Ripeto, io sono qui, @radio24.it, per mandare i vostri racconti. Basta una pagina, basta che sia un racconto che in qualche modo racconta qualcosa di voi. Tutto qua, io sono qui, @radio24.it. Cambiato città per amore, in una notte, 20 anni fa. Ciao Matteo, dopo esserci laureati in giurisprudenza a Mar della Plata in Argentina, ci siamo trasferiti a Milano in un battibaleno. Dopo 20 anni, noi siamo ancora qui. E poi, Matteo, mi piacerebbe tanto venire il 23 di giugno, ma quella sera farò le valigie, perché il 24 parto per la Mongolia con un gruppo di avventure nel mondo. Vi ascolterò in podcast. Ecco, partire con avventure nel mondo forse è un pochettino avventato. Grazie a Stefano D'Andrea, Tiziano Bonini, a Fabio Cantadori e a Viola Bottoni. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?